Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno cari gastronauti, a coloro che ritengono che 0,5 grammi di alcol siano il limite massimo per chi guida oppure chi chiede la tolleranza zero. Quindi sicuramente diciamo due partiti, due schieramenti. Io invito sicuramente a chi volesse intervenire, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Ma vorrei parlare di anche argomenti collegati a questo problema, anche perché diciamo questa criminalizzazione del vino che è in atto da molte parti ha portato anche a delle trasformazioni sul mercato dei consumi, quindi sulla produzione, anche sulle modalità. Pensiamo quanta gente alla sera che va in giro magari a mangiare, che se è così attenta magari non beve e quindi riduce i consumi. Vedremo anche sulla ristorazione qual è stato questo impatto. Ma cominciamo da Andrea Muccioli. Andrea Muccioli è responsabile della comunità di San Patrignano. Buongiorno Andrea. Ciao Davide. Perché da Andrea Muccioli? Perché Andrea Muccioli in tempi non sospetti, 5-6 anni fa, lanciò una campagna bere con moderazione. Bere con moderazione ed era diciamo questo slogan nelle bottiglie della comunità di San Patrignano. Allora a lui chiedo, visto che dirige una comunità così folta, dove è noto chi è in questa comunità sicuramente per problemi di tentare la guarigione e l'uscita dalla droga, quindi un competente sicuramente più di ogni altro, ma allo stesso tempo produttore di vino con la comunità. Come ti poni di fronte a questo problema? Da un lato produttore e da un lato responsabile della comunità di San Patrignano. Ma noi crediamo che ogni ragazzo debba abbandonare i tanti percorsi di fuga dalla realtà, che sono qualsiasi droga, qualsiasi sostanza, alcol inclusa, che può essere utilizzata come droga, allo stesso tempo imparando a gestire se stesso, le proprie risorse, le proprie capacità e i propri rapporti. Quindi, tanto per fare un esempio, noi non più tardi di un mese fa abbiamo consegnato l'attestato di sommelier professionista a 30 ragazzi che stanno finendo il loro percorso in comunità. Questi erano ragazzi che sicuramente hanno utilizzato proprio l'alcol come droga quando erano tossicodipendenti. L'alcol, a differenza delle altre droghe, e il vino in particolare, ti consente, come il gioco, come il sesso, come altre cose che fanno parte della vita, un rapporto corretto, un rapporto consapevole, un rapporto responsabile. Però è inevitabile, dobbiamo riconoscere, che ci sono veramente tantissimi giovani oggi che tendono a usare sempre più frequentemente l'alcol come droga e come sballo, e quindi non possiamo non porci il problema. Ecco, volevo chiederti, come produttore, ora ti chiedo, non è che molti produttori, cioè nella produzione, si dovrebbe anche cercare di ridurre il grado alcolico di molti vini? No, questo credo che sia un'assurdità assoluta. Credo che quello che conta sia avere un approccio e un rapporto responsabile e sano con l'alcol. Io e te ci siamo trovati in varie occasioni a mangiare e a bere insieme, e nessuno di noi due si è mai ubriacato, ha mai avuto l'intenzione di ubriacarsi mentre assaporavamo e parlavamo dei vini che stavamo bevendo. Questo è un approccio, come dire, educato e responsabile a una sostanza come ce ne sono tante. Pensiamo ai tanti farmaci che sono in circolazione e che utilizziamo quando stiamo male, si può abusare anche di quelli. È il rapporto della persona con le cose, con gli strumenti che usa tutti i giorni quello che conta veramente. Pensare di ridurre il problema semplicemente diminuendo di un grado un vino mi sembra veramente un'assurdità proprio. Bene, io so che tu sei impegnato, quindi ti ringrazio, grazie Andrea e a presto. Bene. Grazie. Continuiamo diciamo questo percorso. Numero verde 800 24 00 24, lo ricordo per i nostri radioascoltatori. Ora abbiamo in linea con noi il professor Marco Giustini, epidemiologo. Buongiorno. Dell'Istituto Superiore di Sanità, responsabile del reparto ambiente traumi della sicurezza stradale. Buongiorno professor Giustini. Buongiorno a voi. Volevo chiederle, professore, se lei ritiene che gli incidenti automobilistici causati appunto molte volte di chi ha alzato il gomito, come si dice, siano provocati per la maggior parte dal consumo del vino o di superalcolici? Ma nella realtà italiana direi in generale più dal consumo del vino, perché è una bevanda largamente diffusa sulle nostre tavole, fortunatamente direi, mi permetto di dire. Certo è che anche negli ultimi anni si è avuto una simulazione del comportamento, abbiamo mutuato comportamenti dalle altre nazioni, in particolare dai paesi anglosassoni, dove il consumo di superalcolici è particolarmente elevato. Direi che comunque in Italia ancora il vino la fa ancora da padrona. Bene, rimanga con noi, sentiamo già un radioascoltatore, Mino dalla provincia di Savona. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, ecco, io volevo soltanto soffermarmi su un aspetto. Si fa praticamente un conto approssimativo sugli effetti che ha l'alcol basandoci esclusivamente sulla quantità di microgrammi litro che sono all'interno del fisico. Però, a mio avviso, invece, bisognerebbe trovare un sistema per valutare la capacità di controllare il veicolo, la capacità di avere riflessi attenti, soggettiva per ciascun conducente. Cioè, quando uno viene fermato, e per esempio, io vedo a volte... ad esempio gli extracomunitari, non voglio fare un discorso razzista, non c'entra niente, però sono disabituati all'alcol, quando vengono da noi a volte provano il piacere di bersi la birra o la mezza birra e improvvisamente non sono in grado di controllare neppure la bicicletta, non solo l'automobile. Altre persone che sono abituate a bere normalmente, magari a fine pasto bevono la grappa oppure il cognacchino oppure a pasto bevono i due o tre bicchieri di vino rosso, sono comunque perfettamente lucidi, hanno tutta l'attenzione necessaria per, non solo per guidare ma per compiere qualsiasi azione quotidiana, e in questo caso però vanno incorrono nei rigori della legge e possono vedersi ritirata la patente con tutti i cataclismi che ci sono conseguenti. Quindi secondo me è sbagliato valutare oggettivamente il livello di ubriachezza basandoci soltanto sull'esame del sangue e sulla quantità di microgrammi litro che ci sono di alcol nel sangue. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare dei rapporti tra vino e guida, ma anche dei riflessi che ha diciamo questa legge e le possibili leggi di tolleranza zero sul consumo di vino, sul mercato del vino e anche sull'atteggiamento dei consumatori. Bene, io vorrei rigirare al professor Giustini questa osservazione fatta da questo nostro radioascoltatore di prima, questo signor Mino. L'ha sentita, professor Giustini? Sì, sì, ho sentito e diciamo è un'osservazione di assoluto buon senso. Il problema è che diventa poi difficile valutare sul momento, caso per caso, la capacità funzionale del soggetto nel poter espletare una complessa attività come quella alla guida, per cui si tende a porre un limite che attualmente è stato posto a 0,5 grammi litro, perché si è visto dagi studi epidemiologici che il rischio di provocare un incidente stradale grave o mortale o di esserne comunque coinvolti in qualche modo comincia a manifestarsi concretamente in conducenti con alcolemie appunto che superano 0,5, peraltro con un rischio che cresce in maniera esponenziale in funzione dell'alcolemia del conducente. Per questo si è posto questo limite attualmente 0,5. Ricordiamo che peraltro è un limite che hanno la maggior parte dei paesi europei e di per sé, per esempio, l'esistenza o lo spostamento di un limite in alto e in basso non è che significa poi produrre effetti necessariamente positivi. Io ricordo sempre che per esempio l'Inghilterra e il Regno Unito, dove hanno dei tassi diciamo di incidentalità molto più bassi che noi, hanno più o meno la metà della nostra incidentalità, ma hanno dei tassi e un limite consentito per legge di 0,8, cioè pari al nostro vecchio limite. Per contro, esempio contrario, molti paesi dell'est europeo, per esempio la Russia, dove l'incidentalità è molto più elevata che da noi, il loro limite attuale è zero, per cui di per sé non è che l'esistenza di un limite, porre un limite a zero significa automaticamente ridurre o eliminare l'incidentalità stradale. Bene, io la ringrazio, professor Giustini, grazie. E ora sentiamo Angelo da Rimini, il nostro radioascoltatore. Buongiorno, Angelo. Sì, buongiorno. Non volevo fare una considerazione inerente proprio come intervenuto il dottore, che l'Italia ha una cultura diversa da quella anglosassone. In Italia si si consuma vino, è una nazione che da sempre ha sempre consumato vino e anche con moderazione. In Inghilterra, per esempio, si consumano molto più superalcolici, quindi con situazioni con caratteristiche diverse. Purtroppo si criminalizza molto il bere, appunto, ma l'Italia, l'italiano medio, non diciamo i giovani, va al ristorante e beve con moderazione. Oggigiorno però non beve neanche più quello perché ha il terrore, appunto, dell'etilometro. Poi ci sono anche, l'Italia per me è spaccata in due, perché nel centro e nel sud i controlli si fanno molto meno, mi dicono quasi inesistenti, e invece al nord i controlli vengono fatti in maniera molto assidua. E questo poi si forma anche due Italie, che è sempre questo discorso di disparità. Ma la cosa che penso che sia più rilevante è che il consumo italiano, bisogna creare una cultura normale del consumo italiano del vino, che non è certo quello del grande superalcolico come nei paesi anglosassoni. Poi le differenze 0,5, 0,8, 0,2, quelle lì chiaramente nello specifico, ma bisognerebbe lavorare sulla cultura. Va bene, grazie, grazie ad Angelo da Rimini. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Sono già arrivati moltissimi messaggi, i quali sostengono appunto che in discoteca non si beve vino, ma si bevono superalcolici. Altri ancora che sostengono appunto che con un bicchiere si è già oltre i 30 centimetri cubici, quindi... Scusate, oltre ai centilitri, quindi sicuramente con un bicchiere, ma io non credo che con un bicchiere si passi questo limite, poi lo sentiremo, credo che ci vogliono due bicchieri per passare questo limite comunque. Bene, continuiamo con i nostri ospiti. Ora abbiamo Franco Ricci, che è direttore di Bibenda, nonché presidente dell'AIS di Roma. Buongiorno Ricci. Buongiorno a voi, buongiorno. Caro Franco, io so che ho visto delle cose che tu hai scritto, fai un problema di cultura del vino. Tu dici bisogna così allargare la cultura del vino per far sì appunto che la gente beva con moderazione e sappia cosa sta bevendo. Assolutamente, è vero. Noi non abbiamo la cultura del vino nel nostro paese. In Francia il vino si studia a scuola e noi facciamo fatica come Associazione Italiana Sommelier a fare 8.000-9.000 persone l'anno nei nostri corsi. Allora, sappiamo perfettamente, ormai è logico, che la cultura fa tutto. La cultura insegna il vino nel bicchiere, si assaggia, si beve con moderazione. Ecco, a questo punto il problema che verrebbe risolto se 50 milioni, 58 milioni di italiani potrebbero accedere ai nostri corsi. Questo è un'utopia. C'è un mio contributo che vorrei dare, diverso, perché mi sono un po' rassegnato, ho parlato con diversi ministri, compreso Sacconi, non possono far granché a ridurre questo 0,5, purtroppo lo sento, per questo ho scritto che a questo punto bevo Coca-Cola. Il problema è credo che dobbiamo risolverlo, non so commento del tutto, ma trovare un sistema. Ecco, sto lanciando questo sistema, quello nella ristorazione, nei ristoranti, acquistare un alcolimetro, quello bello, quello giusto, quello della polizia, insomma, quello che costa 450 euro, averlo nel salotto del ristorante, aspettare di terminare un pasto, come dicevi tu, giustamente io credo che due bicchieri e una grappa bevuti nell'ambito delle due ore e mezza del pasto possono arrivare anche a dire, ecco, posso portare la macchina all'uscita. Questo lo vediamo, lo proviamo con un alcolimetro vero. Il ristorante, il sommelier addirittura può dare disponibilità di questo alcolimetro al nostro commensale, lui prova e vede a che punto sta. Se può uscire, lui è tranquillo, esce e quindi fa il suo viaggio. Se questo non avviene, si legge una rivista, 20 minuti, tre quarti d'ora non fa altro che ripetere il meccanismo e quindi avere la possibilità certa di non essere disturbato dalla polizia. Bene, rimani con noi Franco, sentiamo Franco da Vicenza, un radioascoltatore. Buongiorno Franco. Buongiorno, io sono un produttore, oltre a far parte di un gruppo dove cerchiamo di trasmettere anche l'educazione del bere. E quando parlo di educazione è l'uso del vino in modo responsabile. Ovviamente, come tutte le cose della vita, ciò che si eccede diventa un problema. Ovviamente io capisco chi ha fatto la legge, perché il problema è soprattutto dei giovani che escono alle 4 o 5 della mattina magari prendendo i superalcolici, però ovviamente dentro si prende anche chi non ha quel problema. Io però faccio molto un motto che ho letto sul sito di Salvo Foti, che è un noto enologo sì. siciliano, che c'è chi vive per bere e invece il bere dovrebbe essere un piacere per la vita. Bene, ecco. Grazie Franco del suo messaggio. Ora abbiamo con noi il senatore Tommaso Zanoletti, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle proprietà salutistiche del vino. Finalmente parliamo in maniera positiva. Buongiorno Zanoletti. Buongiorno Paolini. Allora, anche delle proprietà salutistiche il vino? Ma sicuramente questo è ormai assodato da una serie di studi, oltre che dall'esperienza, della cultura, della civiltà del vino che noi abbiamo nel nostro paese. Ma guardi, io insieme a altri amici parlamentari e non preoccupati da questa disinformazione che stava dilagando attorno al vino, per cui rispetto alla giusta esigenza di combattere gli incidenti stradali, le stragi del sabato sera, si stava confondendo il vino con i superalcolici o le droghe, oppure si attribuiva al vino ogni causa di incidente stradale, mentre le statistiche fatte ci dicono che solo una piccolissima percentuale, si parla del 3% di questi incidenti, è dovuta all'abuso di vino, mentre ci sono tutta un'altra serie di cause che vanno dagli orari, dai medicinali che si prendono, dall'imprudenza, dall'inadeguatezza delle strade. Abbiamo pensato di fondare un osservatorio sul consumo consapevole del vino, per fare due cose. Ecco. La prima è un'informazione e dunque dire la verità sul vino, no? Che il vino è differente appunto da tutto questo, che il vino non è la causa di tutto. E poi soprattutto educare, ecco, questa parola che ho sentito già molto usata dai suoi interlocutori precedenti, che credo sia la chiave di tutto. Ecco. Noi dobbiamo educare all'uso consapevole del vino, e a questo punto scopriamo che il vino non solo dà piacere, questo è assodato, non solo non fa male, ma fa bene. Ecco. Studi di tutto il mondo assolutamente incontestabili dicono che appunto il vino ha una serie di effetti positivi che sono sia sull'apparato cardiocircolatorio, sia sul sistema nervoso, che in sostanza chi beve vino con moderazione allunga la sua vita. Bene. Noi abbiamo pubblicato anche un volume che ha un titolo un po' così provocatorio, La verità sul vino, come, quando e perché il vino fa bene, fatto da medici specialisti che appunto riassume e propaganda questi studi, insieme a tutto un altro discorso più generale sulla cultura del vino. Grazie al senatore Zanoletti. Ora sentiamo Francesco da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Prego. Pronto? Sì, senta, prego, dica. Guardi, io trovo che questa campagna contro il vino sia una crociata abbastanza stupida, un po' delirante, che mi preoccupa molto. Secondo me, se la gente va a sbattere, e vanno a sbattere, perché guida in modo arrogante, pericoloso, adrenalinico, aggressivo, cioè si vedono cose assurde per la strada. Io suppongo che lei non abbia mai sentito parlare, per esempio, delle stragi della domenica pomeriggio, che infatti non ci sono, eppure le strade intorno a Roma sono piene di gente che si è fatta quei quattro bicchieri di vino e se ne torna tranquillamente a casa con la macchina, c'ha dentro la suocera, la moglie e due figli, e vanno piano e non succede niente. Se poi uno è aggressivo, imprudente, diseducato, guida male e va a sbattere, non possiamo dare la colpa all'eventuale bicchiere di vino. Bene. Oltretutto io ho anche molta paura, perché non vorrei che un giorno io me ne esco da casa con due bicchieri di vino, sto sulla mia mano, vado a 60 all'ora tranquillo, mi arriva un pazzo furioso contromano, mi viene addosso e finisce che è colpa mia perché c'avevo tre bicchieri di vino. Perché poi questa è l'Italia, questa è la giustizia italiana, questi sono i giornali italiani, finisce che mi sbattono come un mostro in prima pagina perché io avevo tre bicchieri di vino, quando magari quell'altro andava contromano a 180 all'ora. Grazie Francesco, perché poi leggerò degli sms proprio in questa direzione. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vino guida e le conseguenze anche di questa battaglia sul vino, sicuramente sulla ristorazione e sulla produzione. Ma sentiamo Maglio dalla provincia di Rimini, un radioascoltatore. Buongiorno Paolini. Buongiorno. La domanda che io mi pongo è più rivolta più che al problema del vino, al problema della sicurezza. Siccome non la sento mai, mi viene il dubbio che sia strana, ma la propongo lo stesso. Noi facciamo un'analisi di un valore alla persona, che è la persona che potenzialmente può fare il danno, però poi ce la prendiamo con la macchina che viene sequestrata, col portafoglio, con una multa, ma quella persona 5 minuti dopo può risalire su un'altra macchina e comunque non si è risolto il problema della sicurezza. Ci sono paesi, vedi l'America, dove di fronte a una persona ubriaca che sta guidando, il problema numero uno è quella di impedirgli di fare dei danni, quindi si va a casa del vino. Bene, grazie Maglio di questa domanda, poi le risponderemo. Ora abbiamo con noi il ministro Luca Zaia. Buongiorno ministro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere intervenuto. Io lei, grazie, però non, a voi. Non farò la solita domanda che le è stata fatta e lei ha già preso posizione ben chiara sul problema appunto dello 0,5 e quindi di non scendere alla tolleranza zero. Io le voglio chiedere, ma questa campagna che viene fatta non ha conseguenze abbastanza così importanti sulla produzione e sulla ristorazione in un momento di grave crisi? La campagna negativa assolutamente sì, nel senso che quella corrente dei liberi pensatori che vorrebbero portare il limite di 0,5 mg litro di alcol nel sangue a zero sicuramente è devastante. In generale è devastante, ma la mia battaglia è una battaglia di civiltà, perché dobbiamo ricordare a tutti, e ringrazio lei per l'ospitalità, che il 2,09%, cioè il 2% degli incidenti è avvenuto in guida, cioè con guida in stato di ebbrezza. Quindi vuol dire che c'è un 98% di incidenti stradali che avviene per altri motivi. Quindi non scarichiamo sull'alcol e sul vino tutti i problemi della sicurezza stradale. Ecco, ma secondo lei, cioè i produttori, in questo momento io vedo, così poi sentiremo anche un produttore, del presidente del consorzio dell'Asti, che così ha lanciato, come posso dire, un SOS, basta con questa campagna contro il vino, perché sembra veramente che stia così riducendo drasticamente i consumi, specialmente alla sera nella ristorazione. È evidente che ci devono essere dei limiti di sicurezza, però secondo me si sta andando un po' oltre con questa campagna. Ecco, io credo che anche i produttori forse dovrebbero far sentire la loro voce, dovrebbero far fare delle ricerche, insomma, dovrebbero in un certo senso intervenire in questo momento, magari investendo anche dei soldi per fare delle ricerche approfondite, appunto per dimostrare quello che lei sta dicendo del 2%. Non so lei cosa ne pensa. Beh, che sfondano la porta aperta. Innanzitutto il 2% è scientificamente dimostrato, perché sono dati ufficiali dell'Osservatorio per la Sicurezza Stradale. E mai ci si interroga ad esempio sull'effetto dei farmaci da banco che noi compriamo, che magari sono analgesici, antidolorifici e antipiretici, che comunque danno tutti come controindicazione non guidare, e guarda caso il 12% degli incidenti avviene per una motivazione che viene definita distrazione, quindi la sonnolenza è quello che abbiamo. La verità è che tutti dobbiamo fare questa battaglia, è una battaglia di civiltà, primi fra tutti i produttori, ben venga l'operazione di Asti di OCG, ma di tutti quelli che comunque riconoscono che colpevolizzare l'assunzione di vino, che poi non ci si ubriaca con il vino, cioè dobbiamo anche ricordare questo, uno che vuole sballare non è che prende vino, si prende le pasticche, si droga o altro. La verità è che questo porta a una contrazione dei consumi e noi non ce lo possiamo permettere. Poi sappiamo che lo sport nazionale in Italia è quello di farsi male da soli, e anche qui abbiamo dato un illustre esempio, perché in Francia questi dibattiti, queste discussioni non si sono mai fatte e non si faranno mai. Bene, io la ringrazio, so che lei è impegnato, grazie del suo intervento e a presto. Buongiorno. Bene, io vorrei chiedere a Franco Ricci, ricordo innanzitutto il numero verde 800 24 00 24 per chi volesse intervenire anche su queste dichiarazioni del ministro Zaia, ma volevo riprendere con Franco Ricci il discorso ristorazione e produzione. Bene, Franco, non pensi che questo stia cambiando un po' le abitudini degli italiani a tavola? Ad esempio alla sera sicuramente molti ristoranti così sostengono che c'è molto minor consumo del vino. Il problema dello 0,5 è comunque odioso. La percentuale che ha detto adesso Zaia è proprio veramente allucinante. Cioè, noi siamo colpevoli, tra virgolette, per il 2,98%, e invece non lo è, perché il 2,98%, ha detto bene il ministro, si tratta dell'alcol, e l'alcol non è soltanto il vino. Il vino io credo che sia sotto l'1%, è una statistica che si è fatta durante questo concepimento del 2,98%. E quindi siamo veramente in una situazione odiosa. Quindi proprio... Allora, l'investimento, investimento in cultura, subito, immediatamente, per non arrivare a fra 100 anni ancora a discutere dello 0,5%, investimento in cultura da parte dei produttori, investimento in cultura da parte delle regioni, lo Stato. Dobbiamo cercare di educare il popolo italiano al vino, al vino di qualità. Questo è veramente un accorato appello che dobbiamo fare subito e immediatamente metterci a non a spendere soldi per far degustare il vino sulle piazze dove la gente poi non si ricorda neanche quello che ha bevuto. Cerchiamo di spendere i soldi affinché la gente sappia che cos'è il vino di qualità e come si beve, perché automaticamente è un fatto automatico. Nel momento in cui sappiamo bere, sappiamo anche quando dobbiamo smettere. Ecco Franco, volevo aggiungere alla tua, così, alla tua osservazione, bere con moderazione, perché anche questo ci dobbiamo dirlo, cioè bere, cultura del bere, ma anche bere con moderazione credo che sia estremamente importante per non passare poi dalla parte del torto. Hai detto giustamente non bere nelle piazze e via di seguito. Grazie a Franco Ricci. Bene, e ora abbiamo in linea con noi un personaggio importante della ricerca. Abbiamo il professor Aldo Bertelli, farmacologo dell'Università di Milano, ma allo stesso tempo il professor Bertelli ha un'azienda vinicola di grandissima qualità. E allora io, cioè, la domanda che mi viene spontanea di rivolgere al professor Bertelli è questa: produttore e al tempo stesso ricercatore, come si pone di fronte a questo problema di appunto della guida dello 0,5, professore? Pronto? Sì. Sì, pronto. Prego, prego. Dobbiamo distinguere due cose, quella che è il produttore e il ricercatore, perché è vero che noi nei vini facciamo delle ricerche che riguardano soprattutto i fattori salutistici presenti nel vino, e noi siamo stati i primi in Italia, certo, a mettere in evidenza le qualità salutistiche del resveratrolo e di altri polifenoli. Ma la questione è diversa se si vuol guardare l'aspetto dell'alcol. Ora, fra tutti i prodotti contenenti alcol, credo che il vino sia quello con percentuali alcoliche molto basse, e perciò dal punto di vista dell'eventuale tossicità sia ben lontano da quella propria dell'alcol. Per quanto riguarda lo 0,5, sì, è un tasso molto basso, potevano fare anche 0 a un certo punto, perché così c'era la massima sicurezza. In tanti paesi, la maggior parte, c'è lo 0% di alcol, però lo 0,5 è già un buon limite di sicurezza, pensando che da 1,5 ci sono già dei disturbi visivi, disturbi dell'ambulazione, eccetera, eccetera. Quindi questi limiti fatti dello 0,5 vanno bene, ma sempre dico, va distinto nettamente quello che le bevande superalcoliche e il vino. Quindi c'è da fare un netto distinguo anche sul consumo, ovviamente. Quando si parla di stragi del sabato sera, sicuramente ci si riferisce molto di più ai superalcolici che all'alcol. Superalcolici, certo. Che incidono per molto. Per arrivare a livelli tossici per il vino, se ne dovrebbe avere un litro o due, insomma. Mentre per i superalcolici bastano 3-4 bicchierini. Bene, io la ringrazio professore, grazie al professor Aldo Bertelli. Bene, sentiamo Giampiero da Imperia, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Io volevo dire, per mia esperienza, dato che sono un agente e viaggio molto, che i nostri politici praticamente non si rendono conto del popolo che rappresentano e non lo difendono in certe piccolezze come questa, no? Che poi è una grande cosa anche. Perché noi abbiamo la cultura di bere vino a tavola. Se lei beve un quartino di vino a tavola, lei ha lo 0,8 per mille nel sangue, quindi lei può guidare. Se ha un quartino di vino e lo beve adesso, ha oltre lo 0,5 e quindi lì viene multato. Quindi uno che viaggia, che fa l'autista, che fa l'agente, viene tolta la patente per un paio di mesi e quello è rovinato. Quindi non ha senso seguire sempre le leggi che impongono o che dicono gli altri stati europei, perché loro hanno altre culture. Sì, questo può essere vero, cioè la cultura di chi produce vino rispetto a chi paesi che non producono vino è nettamente differente, però sai, il fisico reagisce comunque alla stessa maniera sia in Italia che negli altri paesi, c'è da dire anche questo. Bene, sentiamo Giovanni dalla provincia di Milano, buongiorno Giovanni. Buongiorno, salve. Senta, io sono un insegnante, oltre che un amante del vino, chiaramente bevuto con moderazione, chiaramente deve essere assolutamente buono, se no non mi diverto, diciamo così. Però vorrei centrare per un secondo l'attenzione sul valore simbolico, cioè c'è una differenza enorme sostanzialmente dal bicchiere di vino in più o in meno, fermo restando che le reazioni poi sono quelle che tutti quanti noi conosciamo, bevuto da un adulto, diciamo così, rispetto a quello che beve invece un ragazzo in età scolare per quanto riguarda le superiori. In che senso? Perché il valore simbolico che si dà a quel, anche a quel semplice sorso di vino, o se non è vino, qualsiasi altra sostanza, lo autorizza a fare le cose disparate. C'è questa mancanza un pochettino di personalità, di carattere che si denota in modo abbastanza diffuso nei vari gruppi di giovani. Fa sì che il vino sia uno strumento, il vino è il vero problema, è quel valore, ripeto ancora certo. Una volta, simbolico che i giovani danno. Torniamo alla cultura indubbiamente, sì, è un discorso sicuramente che si ripete, e questo della cultura che mi sembra che sia un refrain che si ripercuote sulla trasmissione. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vino e guida. Volevo ricordare che a Torino dal giorno 26, durante il Wine Show che inizia il 24, ci sarà un grande convegno appunto sul tema se bevo non guido, interrogativo. Sentiamo Fabrizio da Venezia. Buongiorno Fabrizio. Sì, buongiorno a tutti. Volevo dire innanzitutto che mi sembra che tutte le persone che sono intervenute abbiano detto delle cose sensate, e sicuramente il fatto della cultura, la cultura soprattutto del vino, nei giovani e anche nei giovanissimi ormai penso che sia fondamentale. Però andando al punto invece della guida, dei controlli stradali eccetera, io credo che almeno per quanto riguarda le mie zone, perché poi ho sentito che effettivamente in altre parti d'Italia non funziona proprio così, il problema è che si è creata una vera e propria caccia alle streghe. E cioè non è, io ad esempio sposerei subito il modello americano, cioè secondo me la polizia ti deve fermare, deve chiederti i documenti, cioè se ti vede lucido, pronto, che rispondi, non può andare oltre, nel senso da noi succede veramente che ti senti bussare sul finestrino e ti trovi un tubo dentro la macchina. Allora mi viene un dubbio che questa cosa, vista tutte le spese che ci sono dopo, perché dietro c'è un giro di soldi che io purtroppo ci sono finito in mezzo, quindi so che cosa vuol dire, so quanto costa eccetera, allora mi viene un dubbio che sia fatto quasi appositamente. Quindi io credo che anche una cultura da parte delle forze dell'ordine, perché io credo che dei limiti ci vogliano, anzi io sarei molto più severo. Però d'altronde, se io vado fuori a questo punto e sono con la mia ragazza al ristorante, io prima di bere un bicchiere di vino ci penso, perché veramente è capitato in parcheggio di trovarsi il tubo in macchina. Fabrizio, abbiamo capito benissimo, è successo anche a me, ma non voglio raccontare casi personali. Bene, continuiamo appunto in questo viaggio, e ora abbiamo con noi Raffaele Alaimo del ristorante Le Calandre di Padova. A lui voglio chiedere una cosa così, non tanto un giudizio su bere o non bere, ma quanto ha inciso sulla ristorazione, diciamo, questa campagna che è in atto, e il discorso dello 0,5 appunto per chi guida. Buongiorno ciao Raffaele. Davide, buongiorno. Ciao Davide, buongiorno a tutti. L'incidenza percentuale come dato non ce l'ho, sicuramente è un forte repressivo, e quindi le persone tendono, se devono guidare, soprattutto nei weekend, o a non bere o a bere solo un calice. Noi da sempre abbiamo servizio a calici, quindi sotto questo aspetto riusciamo a sopperire, ma per me il grande cambiamento è sul godimento delle persone, perché il vino, oltre ad essere cultura, fa parte anche, è un acceleratore gustativo, aiuta anche nella digestione, cioè rende allegro un tavolo. Il vino è una componente che è basilare per quanto riguarda una serata gastronomica di grande piacere, di grande livello. Quindi tu pensi che il vino a calice possa così in un certo senso portare un contributo a far sì che magari non si prenda la bottiglia, quindi non si ecceda? Assolutamente il vino a calice aiuta tantissimo, ma questo è una cosa che a prescindere fra l'altro dal controllo alcolico, che quindi questo ti consente sicuramente di assaggiare due cose senza bere due bottiglie, e il vino a calice è uno dei modi per fare avvicinare le persone anche ad altre tipologie di vini e riuscire a diffondere la cultura di cui stiamo parlando dall'inizio della trasmissione. Bene, grazie a Raffaele Alaimo, grazie. Sentiamo Cesare della provincia di Piacenza. Buongiorno Cesare. Buongiorno dottor Paolini e complimenti per il Gastronauta. Stiamo comunque facendo, secondo me, un attimo anche di confusione, perché stiamo ascoltando interventi di persone particolarmente importanti, dal ministro Zaia a quest'ultimo ristoratore. Io però la inviterei anche a fermarsi in qualche trattoria che si trova lungo la strada, dove autisti o comunque persone, non voglio colpevolizzare la categoria, attenzione, però chi si siede in una trattoria in genere si becca il suo mezzo litro, il suo litro di vino sfuso chiamato della casa, e non mi si venga a parlare di prodotti di qualità, si sta parlando semplicemente di vino inteso come bevanda. Di conseguenza, chi si beve a pasto un mezzo litro o un tre quarti di vino rosso proprio per accompagnarlo durante il pasto, non lo fa certo per assaporare un discorso, cioè per assaporare una qualità, lo fa perché c'è un'abitudine, c'è un vizio. Allora, io sono per il tasso zero, sono un grande amante del vino e con rammarico anch'io quando vado al ristorante mi fermo di fronte a, sono costretto a fermarmi di fronte a una bottiglia di ottimo vino o di buon vino. Però non dimentichiamoci che il vero problema è anche fermo a chi beve senza misura proprio per bere, perché adesso si colpevolizza il giovane eccetera eccetera, e ci sta, ma il giovane giustamente lo sballo non lo cerca. Certo Cesare, è evidente che ci sono casi e casi, ma come diceva lei prima, parlava di trattorie, noi abbiamo il telefono aperto e chiunque può intervenire, quindi sicuramente non c'è questo limite. L'altro discorso è vero, bisogna distinguere tra bevitore e bevitore, su questo non ci sono dubbi, e bisogna assolutamente farlo, non si può generalizzare. Grazie comunque a Cesare. E ora abbiamo con noi Paolo Ricagno, che è presidente del consorzio del Moscato d'Asti, del consorzio Asti di OCG, mi correggo, Asti e OCG, il quale ha reagito abbastanza così con forza a questa campagna. Io voglio fare una domanda secca a Paolo Ricagno: incide sui consumi del vino questa campagna? Beh, intanto grazie della telefonata e di permettermi di intervenire. Io devo dire, basta di demonizzare il vino. Questa campagna sta veramente destabilizzando l'economia della nostra Italia vitivinicola. Non è più possibile continuare così. Si sta facendo di tutta un'erba un fascio, e quando si parla di alcol si parla di vino. Il grosso problema è che il vino è un alimento e così va trattato. Non bisogna demonizzarlo. Oggi invece si sta facendo la caccia alle streghe sul vino. Io veramente sono un viticoltore dalla quinta generazione, tutelo un consorzio che produce l'Asti spumante, che è poi in sostanza 7,5 gradi di alcol, quindi voglio dire, saremo i più favoriti in questa situazione, ma non è più possibile trattare il vino in questo modo. Oggi il grosso dei problemi non derivano da chi beve vino, perché sicuramente non viene bevuto smodatamente, almeno sicuramente nella grossa percentuale dei casi. Il vino bevuto moderatamente è un alimento e fa bene alla salute, quindi così lo dobbiamo trattare. Mi permetta, vorrei dire questo: in Piemonte si sta cercando di passare i vigneti piemontesi il patrimonio dell'UNESCO. Quindi da una parte passiamo i vigneti piemontesi patrimonio dall'UNESCO, dall'altra demonizziamo il vino per cui più nessuno lo beve. Lei parlava dei consumi ridotti nell'Horeca. Allora io le dico che le nostre aziende hanno ridotto le vendite nel canale Horeca, che è il canale della ristorazione, e hanno ridotto quasi del 50%. Quindi questo è un danno economico importantissimo. Il vino è made in Italy, si esporta all'estero. In Italia un mio associato l'altro giorno ha detto: mi meraviglierei che per farci male bloccassimo i turisti all'entrata in Italia e non li facessimo entrare. Cioè, non è possibile continuare in questo modo. Bene, lunedì... grazie, io la ringrazio Riccagno perché devo chiudere la trasmissione. Abbiamo sentito il suo parere, che un po' riassume il parere dei viticoltori italiani. Devo dire, mi spiace di non poter sentire un radioascoltatore, Riccardo da Vercelli, lo faremo la prossima volta, e volevo semplicemente dare un risultato, che tra i tantissimi SMS vedo l'Italia divisa, vedo chi vuole la tolleranza zero, chi invece non accetta appunto questa criminalizzazione del vino. Quindi pareri completamente diversi, ovviamente fazioni diverse, ed è giusto anche che sia così, che non tutti abbiano la stessa opinione. E ora la linea al riposo del guerriero.